Capitolo 38. Ferrara, 2 ottobre 1551. Il Chiù ha versato acquavite, una battuta e un commiato veloce, verso la residenza dei Miquez. Beatrice in piedi, accanto a una grande voliera. Un merlo delle Indie becca una mela dalla sua mano. Ogni volta che la vedo, capisco perché non ho più tanta voglia di andarmene in giro a raccattare tipi come Emanelfi. Resto a guardarla, aspettando che si accorga della mia presenza. Ludovico, vuoi farmi paura, conciato così? Perdonami, ma non ho avuto tempo di rendermi più presentabile. Ho qui per te un messaggio di Joao. Joao, Joao! Mi giro di scatto verso la gabbia e Beatrice scoppia a ridere. È sorprendente come riescano ad imitare la voce degli uomini. Mi porge il foglio sigillato. A una prima occhiata c'è da restare perplessi. Una sequenza di frasi inneggianti alla vita nei campi. Prova con questa. Beatrice mi dà una sottile lamina di ferro bucherellata, grande quanto la pagina. È il nostro codice di famiglia. Lo usiamo da molti anni, per metterci al riparo dagli occhi indiscreti. Sovrapponi la griglia al foglio. Gli spazi intagliati nella lamina isolano parole, pezzi di frasi, sillabe che improvvisamente acquistano senso. Un nuovo cane, dalla campagna romana, tedesco, cacciatore d'erba maligna, scruta, legge, consiglia, sempre dentro il serraglio, non mostra il volto, aiuta i pastori a contare il gregge, a separare il grano dall'olio, serve il padrone, senza indossarne l'abito, non cercare di tornare in laguna, cercano il pittore, nuove arriveranno. Un uomo di carafa ad affiancare l'inquisitore veneziano, tedesco, laico. Cerca Tiziano. Quelet. Ci siamo. Quello che devo fare.